Italia in controluce. Buongiorno a tutti, oggi è il 6 dicembre ed è una giornata importante per la politica. Silvio Berlusconi ritorna dopo mesi di silenzio, di annunci e di smentite. Me lo chiedono in molti, il paese sull'orlo del baratro, aveva detto ieri. Siete d'accordo nella nuova discesa in campo di Berlusconi oppure, come ha detto pochi minuti fa Giorgia Meloni, quello del Cavaliere è un errore? Ci sono tanti aspetti in questo momento, c'è una sostanziale crisi della maggioranza, in quanto il PDL poco fa, per tutta la mattinata in Senato, ha lasciato la maggioranza. Ci colleghiamo subito con Elisabetta Fiorito. Vi ricordo i vostri messaggi 349-238-6666, d'accordo o non d'accordo sulla nuova discesa in campo di Berlusconi. Betta, cosa sta succedendo? Sta succedendo che tutto procedeva tranquillo fino a metà mattinata, quando il PDL a sorpresa ha deciso di staccare la spina al governo. Questo di fatto quello che è successo nell'aula di Palazzo Madama, perché il PDL non ha partecipato alla votazione sulla fiducia posta dal governo sul disegno di legge sviluppo. Il provvedimento è passato nell'aula del Senato ma senza la maggioranza assoluta. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il governo non ha più la maggioranza parlamentare. Quali possono essere i passaggi, Betta, perché il PD poco fa ha chiesto che Monti vada a riferire in Quirinale e pochi secondi fa Schifani ha detto che riferirà tra poco a Giorgio Napolitano. Quali possono essere i passaggi? Intanto il Premier deve comunque salire al Quirinale perché c'è una comunicazione ufficiale, cioè da parte della seconda carica dello Stato, quella di Schifani. Il fatto che dice fatto non indifferente informerò il Presidente della Repubblica, qui c'è un passaggio ufficiale, quindi il Presidente del Consiglio dovrà salire al Quirinale. Il segretario del PD Pierluigi Bersani alle 14, quindi fra mezz'ora, incontrerà i capigruppo di Camera e Senato per vedere se effettivamente il governo gode ancora della fiducia. Ecco, allora noi abbiamo Parlamento. La voce di Pierluigi Bersani, sentiamola subito, grazie. È evidente che la PDL sta trasferendo la sua confusione interna in una confusione di sistema, di nuovo rischiando di sottolineare inaffidabilità, non solo loro, ma del Paese. Questo mi pare un fatto molto grave, molto serio. Dopodiché in queste ore vediamo se si è trattato di un'astensione dal voto, dal passaggio ad un'astensione politica. Non ho capito. Oggi incontrerò i nostri due capigruppo e faremo il punto della situazione. Ecco, questa la voce di Pierluigi Bersani, grazie Elisabetta Fiorito, che sentiremo nelle prossime ore. Io ringrazio Piero Ignazzi, politologo. Buongiorno Ignazzi. Buongiorno. Allora, che cosa sta succedendo secondo lei? Questa nuova discesa in campo di Berlusconi fa bene o fa male al Popolo e Libertà? Intanto vediamo se sarà veramente discesa in campo. Su questo bisogna sempre aspettare l'ultimo minuto e vedere come è la concretezza. Non sono convinto al 100% che abbia preso questa decisione dopo averla smentita e ripresa alcune volte nel corso degli ultimi mesi. Detto questo, anche sulla tenuta del governo non sarei così catastrofico, secondo me, perché credo che all'interno del PDL ci siano anche componenti ragionevoli che capiscono quanto grave sia una crisi improvvisa del governo di fronte a una situazione, come sappiamo benissimo dal punto di vista economico-finanziario, molto pressante, e quindi ritengo che ci sia ancora spazio per ritornare indietro sostanzialmente. Grazie mille Piero Ignazzi, politologo. Berlusconi non può andare ad un circo, dice un nostro ascoltatore. Qualcuno convinca Berlusconi ad andare in pensione. Altri ancora, il paese al baratro l'ha portato lui, dice Corrado da Como. Sono decine e decine, gli sms sono arrivati al 349-238-6666 che mi sembra di capire non sono d'accordo d'accordo nella nuova discesa in campo di Berlusconi, e un altro ascoltatore dice sarebbe il caso di dire chiaramente che Berlusconi apre la crisi per bloccare il decreto, cioè questo decreto che è in discussione in questi minuti e Consiglio dei Ministri, che parla di liste pulite e di corruzione. Ma facciamo un salto indietro, un passo indietro con la nostra Valeria De Rosa, perché fino a pochi giorni fa si parlava, dopo le primarie del PD, anche della possibilità che il Popolo e Libertà andasse alla conta, cioè andasse forse anche alla resa dei conti finale attraverso il sistema delle primarie. Invece che è successo? Allora, intanto possiamo dire che il segretario Angelino Alfano le aveva confermate appunto solo due giorni fa. Le primarie del PDL si faranno, aveva detto, e si faranno il 16 di dicembre. L'ultimo vertice di cui si aveva avuto notizia, l'ultimo prima delle parole di ieri sera, era stato ad Arcore lo scorso sabato, e Alfano, uscendo da quel vertice, aveva detto: ho trovato in Berlusconi grande disponibilità a mantenere unito il PDL. Evidentemente però Alfano, che conosce bene la persona con cui ha a che fare, aveva anche messo le mani avanti, affermando che la scelta della ricandidatura alla premiership di Berlusconi fosse solo una sua scelta, appunto, una scelta che tutti avevano dato un po' per scontata, nel senso che per tutti Berlusconi avrebbe fatto un passo indietro. Invece ieri il Cavaliere ha sparigliato le carte e scompigliato i piani di chi era già pronto alla candidatura, come Giorgia Meloni, i cui manifesti sono già in molte città e che oggi ha twittato questo messaggio secondo cui ritiene un errore la ricandidatura di Berlusconi, e i piani ad esempio di Guido Crosetto, che è un onorevole del PDL tra i più critici su come va avanti il partito da qualche tempo. Evidentemente anche i formattatori del sindaco di Pavia, Alessandro Cattaneo, sono rimasti molto spiazzati. Abbiamo cercato di contattare Cattaneo, che però a un certo punto della mattinata è diventato irraggiungibile, gioco forza anche per quello che stava succedendo al Senato. Un po' meno spiazzata sicuramente sarà la Santanchè, che si era candidata ma era già pronta a fare un passo indietro, certa che le primarie si sarebbero rivelate un flop per il PDL, mentre l'ex governatore, ex ministro Galan, si era già ritirato. Per una parte del partito, ad esempio, questa mattina si era così pronunciato Maurizio Gasparri: Alfano resta il candidato premier, però appunto il partito a questo punto potrebbe avere una fisionomia molto diversa da quella attuale. E beh, insomma, questa è la situazione. Intanto sono arrivate decine, anzi ormai molte decine di sms in pochi minuti, da Mariella, che parla di un vero disastro se si andasse ad una crisi di governo. Chi se la prende con i mercati, dici, quindi non si fanno più le elezioni perché i mercati non vogliono. Chi invece difende qualcuno dei nostri ascoltatori, difende anche la nuova discesa in campo di Berlusconi, e poi quasi certamente i militanti del Popolo e Libertà. E un altro ascoltatore, da Giorgio da Torino: non avrebbe più votato per il centrodestra, ma ora non avrebbe più dubbi. E ancora, secondo un altro ascoltatore, dopo il boom mediatico delle primarie di sinistra, la mossa serve a spostare l'attenzione sulla destra. Alla fine si metteranno d'accordo dopo un grande boom mediatico della destra. Questo è il parere dei nostri ascoltatori. Vi ricordo, tutti i giorni Italia in controluce vi racconta l'Italia in diretta. State con noi, restate con noi. A domani 13:30.